Carissimi ascoltatori, buonasera. Riprendiamo il nostro commento al credo o simbolo degli apostoli. Prima però lo proclamiamo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questa sera commentiamo brevemente l'espressione creatore del cielo e della terra. Aprendo la Bibbia, proprio nella prima riga troviamo: in principio Dio creò il cielo e la terra. Abbiamo detto l'ultima volta che Dio è padre di tutti, è creatore di tutti e di tutto. Quindi essere padre significa essere creatore. Un genitore dà la vita a suo figlio, prima non esisteva per nulla. Un genitore, due genitori sono collaboratori, co-creatori insieme con Dio della vita dei figli. Ecco allora, una breve riflessione sulle prime pagine della Bibbia, quelle della Genesi. Esse tracciano una scena grandiosa dell'origine del mondo e dell'uomo, ma sollevano anche molte difficoltà. Ne ricordiamo una sola. Come conciliare l'insegnamento della Genesi con le teorie e le scoperte della scienza? Ed ecco allora, senza dilungarci, facciamo una chiarificazione, una precisazione su il compito della fede, e la Bibbia è un libro di fede, e il compito della scienza. Scienza e fede sono chiamate a vivere da buone vicine, purché ciascuna rimanga a casa sua. Ossia, non mescoliamo scienza e fede. Perché? Perché hanno due scopi diversi di esistere. La scienza, infatti, cerca il come delle cose e del mondo. Come ha avuto inizio il mondo? Come si è sviluppata nel tempo questa evoluzione del mondo? Il come. La fede invece non ci dice il come è stato creato il mondo, come si è evoluto, non ci parla di ere geologiche, tanto per capirci, ma la fede ci dice il perché. Quindi, ripeto, la scienza cerca il come è avvenuta questa creazione del mondo. La scienza cerca il perché esiste il mondo, perché esiste la vita, l'uomo. Scienza e fede quindi sono due sorelle, figlie di Dio, perché la scienza viene da Dio e porta Dio. Sono fatte per amarsi e aiutarsi queste due sorelle, a condizione che ciascuna rimanga nel proprio campo. Noi ricordiamo, così solo per un accenno, la confusione che è successa nel caso Galileo tra la scienza e la fede. Che cosa ha detto l'ultimo Concilio Vaticano II su questo tema? Leggo dalla Gaudium et Spes al numero 36, la Chiesa nel mondo contemporaneo. La ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. E quindi se è Dio l'origine della scienza e anche della fede, Dio non può creare contraddizione o dire attraverso la scienza qualche cosa che sia contrario alla fede. Leggiamo dunque questi capitoli della Genesi con scienza e fede. E che significa con scienza e fede? Studiamoli con intelligenza per quello che vogliono dire, per quello che sono, e diciamo subito, questi primi capitoli della Genesi non sono un testo scientifico di astrologia, di geografia, no, sono pagine di fede. Quelle della Genesi sono pagine di altissima poesia, racconti di una rara vivacità e intelligenza, risposte rivelate infallibili per la fede, ossia è Dio che parla e dice delle cose importanti e interessanti. Tutto quanto è contenuto nei primi 11 capitoli della Genesi è un affresco eccezionale, una grandiosa teologia in immagini, ma non è una storia delle origini come la può e la deve raccontare la scienza, che va con i suoi scavi e le sue ricerche a cercare i tempi andati fino ad arrivare, se sarà possibile, all'inizio della esistenza della creazione del mondo. Allora, il primo capitolo della Genesi è stato scritto verso il 450 avanti Cristo. Se noi pensiamo che la scienza dice che l'uomo esiste sulla terra da qualche milione di anni, la scienza dice che il nostro pianeta esiste da circa 10 miliardi di anni, voi capite che uno che ha scritto 2450 anni fa questo primo capitolo della Genesi non è un testimone del come è iniziato il mondo, è un uomo vicinissimo a noi, nostro fratello, e quindi questa datazione può sconcertare se pensiamo appunto che l'origine dell'uomo risale a milioni di anni prima che lui scrivesse. Siamo davanti a una riflessione guidata da Dio, dallo Spirito Santo, questo certamente, una riflessione sull'uomo e sul mondo fatta all'epoca dell'autore ispirato da Dio, ripeto, verso il 450 prima di Cristo, quindi potremmo dire l'altro giorno. Questa riflessione mette in luce delle verità essenziali e si serve di leggende del tempo per esprimersi in maniera immaginifica e comprensibile agli uomini di allora e di ogni epoca, perché è un modo di scrivere, di presentare le cose che affascina anche noi oggi. Che cosa possiamo cogliere, imparare da queste pagine? Possiamo cogliere chiaramente quanto l'autore sa e anche ciò che non sa. Una delle cose importanti, fratelli e sorelle, quando si legge la Bibbia è non far dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. La spiegazione della Bibbia si chiama esegesi dal greco, che vuol dire tirare fuori i contenuti che ci sono dentro nelle parole della Bibbia. Quando invece vogliamo mettere dentro noi delle cose che nella Bibbia non ci sono, facciamo della eisegesi, ossia mettere dentro invece che tirare fuori, aggiungere invece che attingere quello che è contenuto nella Bibbia. Innanzitutto, l'autore del libro della Genesi, o gli autori, perché gli autori sono più di uno, e poi c'è un redattore finale che mette insieme questi filoni, questi racconti. L'autore o gli autori sanno che il mondo non è Dio, quindi una netta distinzione tra Dio e il mondo creato. E quindi rifiutano ogni panteismo. Che vuol dire panteismo? Tutto è Dio. È la dottrina di quelli che pretendono che Dio si confonda con l'universo, la terra è Dio, l'uomo è Dio, i sassi sono Dio. No, Dio è Dio, la creazione è una realtà distinta da Dio. Gli autori del libro della Genesi sanno che Dio non si identifica con il mondo, e questa è già una grande verità. Poi In questo testo troviamo anche il rifiuto di ogni politeismo, ossia la natura, le forze della natura non sono Dio. Osserviamo che solo tre religioni, le sole tre che affermano la creazione del mondo da parte di Dio, e sono il giudaismo, il cristianesimo e l'islamismo, tutte e tre beneficiano delle confidenze divine attinte dalla Bibbia, solo queste tre religioni sono anche capaci di evitare di confondere Dio col mondo. Dio è Dio, il mondo è una creatura distinta da Dio. Ancora, l'autore del libro della Genesi sa che questo mondo, nella sua stessa esistenza, dipende dalla libera volontà di una persona che lo supera. Il significato del termine creazione, creato, è proprio questo. Creato vuol dire un essere che dipende nella sua esistenza da un altro. Il mondo non esiste di vita propria, esiste perché la vita gliela dà un altro. Questo è il significato di creato e di creazione. Questo autore sa che il mondo non è stato creato in seguito a una lotta fra Dio e le potenze malvagie. Ricordate le cosmogonie delle altre religioni o degli autori orientali soprattutto che noi conosciamo. Il principio del bene e del male si affrontano e poi uno dei due muore e la terra viene impastata con il sangue dello sconfitto. No, non ci sono queste cose nella Bibbia. La creazione è completamente opera di Dio e la creazione è stata fatta da Dio per l'uomo, questo dice la Bibbia. L'alleanza prima e originale è questa, la creazione è tutta di Dio, è sua proprietà, l'ha fatta Lui e nessun altro gli ha dato una mano, e tutta la creazione è per l'uomo. Dio ha creato questo grande universo per noi uomini, per me uomo. L'autore del libro della Genesi sa che gli astri, per esempio, non sono dei. Ricordate che le altre religioni di allora adoravano il sole, adoravano la luna, adoravano gli animali della terra, le stelle. Per l'autore della Bibbia, gli astri assolvono una funzione nell'equilibrio del mondo e sono a servizio dell'uomo. Per esempio, il sole e la luna sono come due orologi per segnare il tempo, fonti di luce per l'uomo, molta luce di giorno e una luce più flebile di notte. L'autore di questo testo della Bibbia sa che l'acqua, il cielo, la terra non sono divinità, ma elementi di bellezza e oggetti, oppure oggetti del lavoro umano. Vede una casa e dice, sì, la materia prima l'ha creata Dio, poi l'uomo ha sgrezzato le pietre, insomma c'è Dio creatore e l'uomo che continua il lavoro, perché anche lui creatore ha immagine e somiglianza di Dio. Allora, cosa dobbiamo dire? Leggendo serenamente, seriamente questo testo della Bibbia, noi notiamo che viene estromesso il senso di sacro da tutte le cose. Per sacro intendiamo una creatura che è idolo, che è Dio. Dio è Dio, la creazione non è Dio e non è neanche un piccolo Dio, un Dio derivato da Dio. No, no, la creazione è opera di Dio. Allora, restano due interlocutori l'uno di fronte all'altro. L'uomo, per il quale tutto è stato fatto, preparato da Dio, e Dio che ha fatto tutto. In questo universo creato, il sacro non potrà più essere cercato al di fuori dell'uomo. Solo l'uomo ha una finalità a sé stante e tutto il mondo è in funzione a servizio dell'uomo. L'autore della Genesi sa che tutta la creazione mantiene un rapporto ininterrotto di dipendenza con Dio, ma tale rapporto è privilegiato soprattutto per l'uomo, il solo fatto a immagine e somiglianza di Dio, e su questo ci intratterremo questa sera. Sa che l'uomo e l'universo dipendono da Dio, pur rimanendo liberi di fronte a Dio, perché Dio è amore, e anche su questo ci intratterremo nel seguito. Molte persone, citeremo per esempio Sartre, questa sera dicevano: se l'uomo è libero, Dio non esiste, perché se no Dio gli toglierebbe la libertà e lo costringerebbe a fare quello che vuole lui, perché è più potente. E invece l'uomo esiste, è libero, ed esiste anche Dio, solo che il Dio che aveva in testa Sartre non è il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo, perché Dio è amore, e l'amore non costringe nessuno, non violenta nessuno, dà massimo spazio e campo alla libertà delle sue creature. Il mondo è fatto per noi uomini perché ci possiamo sentire a casa nostra, perché ci sentiamo amministratori del mondo con pieni poteri, responsabili, e di questo dovremmo anche rispondere a Dio. Noi siamo posti qui sulla terra per essere veramente amministratori, rappresentanti, delegati di Dio, non schiavi di Dio. Uno che mi ama non mi vuole schiavo. Siamo qui in rappresentanza del creatore del mondo. Siamo gli amministratori delegati. Nessun uomo può essere schiavo di un altro uomo, perché nessuno è schiavo nemmeno di Dio. Ecco, allora possiamo dire: l'uomo può e deve usare le cose, può e deve usare gli animali, l'uomo non può usare un altro uomo. L'uomo può solo amare l'altro uomo, amare la donna. Ma anche l'universo in un certo senso è libero, esso è autonomo, ha le sue leggi, e Dio, che è stato infinitamente intelligente nel mettere delle leggi nell'universo, non interviene arbitrariamente, non si disdice in continuità come se fosse uno che deve rivedere il suo progetto o aggiornarlo perché non l'aveva calcolato bene. Tutto questo dimostra la serietà di Dio, la serietà della creazione. Infine, l'autore ispirato sa che l'uomo e la donna sono stati creati insieme e uguali, che tutti e due senza nessuna differenza sono immagine di Dio. Magari lo avessimo capito anche noi oggi, purtroppo esistono ancora tante differenze, spesso a sfavore della donna, perché non abbiamo ancora capito e assimilato questa pagina della Genesi. Dicevamo che l'autore della Genesi ignora anche molte cose, e quindi noi non dobbiamo fargliele dire, stiamo a quello che ha detto, né più né meno. L'autore non sa nulla dell'età del mondo, ignora dove sono apparsi i primi uomini, parla del giardino dell'Eden o paradiso terrestre. Notate che è un luogo immaginario, non cercatelo sulle carte geografiche. Dov'era l'Eden? Dove è stato creato Adamo ed Eva? Qualcuno dice: e allora sui fiumi Tigri e Eufrate? E oggi scopriamo dei reperti di uomini nel cuore dell'Africa che risalgono a milioni di anni fa. Si dice: ma allora qui la Bibbia ha sbagliato tutto. Guarda che la Bibbia non ti ha mai detto che l'Eden era da una parte o dall'altra, ma me l'ha raccontato al catechismo, e erano degli sprovveduti. L'autore della Genesi non sa come è fatta la Terra. Pensate che noi abbiamo scoperto la rotondità della Terra, diciamo, nel 1500, tanto per buttargli una data grezza. Ci chiediamo anche: ma toccava proprio a lui, allo Spirito Santo, darci lezione di geografia, di geologia o di astrologia? Dio ha messo l'uomo sulla Terra, ha detto: cammina, sottometti la Terra agli animali, gira, vedi, studia. E piano piano la scienza arriva, e arriva anche bene. Scrive Charles Baillard: La nostra affermazione «credo in Dio creatore» non ci dà affatto luci speciali sul passato del mondo, sulle immense stagioni in cui il mondo si è costruito nella notte dei tempi, né sulla lenta apparizione di questa specie curiosa che i biologi chiamano Homo sapiens, ossia l'uomo di oggi, noi. Queste luci le aspettiamo dalla scienza, ma abbiamo un'illuminazione sul nostro presente e sul nostro futuro. La Bibbia ci dice chi siamo e perché esistiamo e ci dà appunto la risposta. Noi esistiamo a causa dell'amore infinito di Dio, perché Dio ci ha voluti per un amore infinito. La Bibbia ci interroga come credenti e non come scienziati, non si rivolge all'uomo scientifico ma all'uomo vivente, anche all'uomo della strada se vogliamo. La Bibbia non pone una domanda e non dà una risposta scientifica come è avvenuta la creazione del mondo, l'inizio del mondo, pone la questione del senso e del non senso della vita. Perché c'è la Terra? Perché noi ci viviamo su? Da dove veniamo? Cosa ci stiamo a fare? Dove stiamo andando? Dio vide quanto aveva fatto, è scritto nel libro della Genesi, ed ecco, era cosa molto buona. Ecco allora la visione di Dio, un superlativo, la creazione con l'uomo e la donna come opera ultima, definitiva della creazione, viene valutata da Dio come bellissima e buonissima, molto buona. Che visione abbiamo noi della vita dell'uomo, della donna, della famiglia, del mondo, delle cose? La visione di Dio o una visione totalmente opposta e sconcertante? Allora, parlando di Dio, noi dobbiamo dire già a questo punto che Dio non è l'eterno celibe dei mondi, come lo chiamava Chateaubriand, solitario, chiuso in se stesso, nella sua ricchezza infinita, come un avaro sul proprio tesoro, quindi uno da solo che sta lì e dice «la mia roba me la tengo io». Dio è amore, generosità inarginabile, sorgente traboccante. Il Salmo 36 ci ricorda: è in te, o Dio, la sorgente della vita. Dio è libero di creare e anche di non creare, perché è già completamente autosufficiente nell'amore per il Figlio suo, nella presenza dello Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio, il noi del Padre e del Figlio. Quindi la paternità di Dio è infinitamente appagata già nel Figlio Eterno, nel quale si ritrova perfettamente, con il quale scambia un amore che li rende veramente uno. Ma nonostante Dio non avesse bisogno alcuno di creare il mondo e noi, Dio ha voluto suscitare altri figli e altre figlie e questo meraviglioso luogo di abitazione, l'universo, la Terra. Il mondo creato porta l'impronta del creatore, tutte le creature assomigliano a Dio, ma solo Dio è Dio, come le opere d'arte portano l'impronta del loro autore, ma non sono l'autore. La creazione, come dice la scienza, è in costante, incessante sviluppo di espansione, è un mondo in avanti, un mondo che va verso il futuro, sviluppandosi in meglio. Si chiama la teoria della evoluzione o l'evoluzionismo. Gli studiosi, dopo numerose scoperte, si trovano d'accordo nell'avanzare l'ipotesi della evoluzione generalizzata come una legge fondamentale di tutta la natura. Tutto va migliorando. La materia sarebbe in possesso di un'energia che la spingerebbe continuamente verso il perfezionamento. Su questa linea di progresso, dopo miliardi di anni, dovrebbe essere vista l'apparizione della vita animale e poi della vita dell'uomo. Nulla di tutto questo è contrario alla fede, quindi non scalmaniamoci a combattere contro i mulini a vento, questo è contro la Bibbia, ma neanche per sogno. La Bibbia tratta di altro e per altro scopo e con altro sistema. Dio è la fonte di questa evoluzione che porta il mondo a svilupparsi, porta le galassie a creare spazi nuovi perché si stanno allontanando dal nostro centro. Dio crea un mondo che si trasforma. L'universo e l'umanità sono in evoluzione sempre più complessa e veloce verso il loro pieno compimento. Come sarà? Io non ve lo so dire, ce lo dicano gli scienziati. Questa concezione in avanti provoca anche noi cristiani. I cristiani devono avere il futuro nel cuore, non essere di retroguardia. I cristiani devono avere la capacità di adattarsi alla realtà dinamica della vita, di umanizzare la corsa verso il futuro, di umanizzare anche la scienza. I cristiani, ripeto e concludo, devono avere il futuro nel cuore, devono essere lanciati nel futuro, devono essere in prima linea. Non possono e non devono essere in retroguardia. Chi rimane indietro guardando verso il passato in modo nostalgico non è un cristiano, è una controtestimonianza al vero cristianesimo. Creatore del cielo e della terra significa anche creatore degli esseri che in essi vi abitano, gli angeli, i demoni, gli uomini. Diciamo brevemente qualche cosa sugli angeli e i demoni. L'esistenza di angeli e di demoni è continuamente affermata nella Bibbia. Nel Nuovo Testamento la rivelazione sugli angeli e sui demoni si chiarisce e prende contorni più precisi attorno a Cristo Gesù. Difatti il Vangelo ci dice: il demonio condusse Gesù, il demonio tentò Gesù, gli angeli servivano Gesù. Ecco, allora incominciamo prendendo da tutta la Bibbia, in particolare dai Vangeli, le verità su queste creature. Col nome di Satana, che vuol dire avversario, o di diavolo, che vuol dire il calunniatore, colui che mette divisione, la Bibbia indica un essere invisibile, che era un essere personale, perché creato buono da Dio per rapportarsi nell'amore con gli altri, e ora bisognerebbe dire, per un minimo di precisione teologica, un essere che esiste al modo di non persona, perché invece di comunicare bene amore comunica il male, quindi distrugge invece di edificare. E l'azione e l'influenza di questo Satana o diavolo si manifestano sia nell'attività di altri esseri comunemente chiamati demoni, i suoi aiutanti, sia nel tentare l'uomo. Egli viene rappresentato già nel libro della Genesi come il serpente, creatura di Dio come ogni altra, angelo libero, però ribelle, decaduto e invidioso della felicità dell'uomo e nemico del disegno di Dio. Quindi Dio ha creato tutti gli angeli buoni, liberi, e facendo uso della libertà, parte di questi angeli hanno fatto una scelta in contrasto con Dio. Nell'Apocalisse ci viene presentato come il drago scacciato dal cielo con i suoi angeli, che sono i demoni, e gettato sulla terra. Nel Vangelo ci viene presentato come il principe di questo mondo, ma Gesù è venuto per gettarlo fuori, come dice lui stesso al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. Il racconto della grande lotta di Gesù inizia così. Leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 4. Gesù fu condotto dallo Spirito Santo, nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò. E il Vangelo continua. Satana si avvicina agli uomini sempre come tentatore. L'uomo per natura è debole ed è meno furbo, meno astuto del diavolo. Da sempre il peccato è innanzitutto l'atto della potenza delle tenebre, ossia del diavolo, del serpente antico, del padre della menzogna, del maligno. Quindi è lui il protagonista del peccato, di ogni peccato. Se vogliamo dare un nome a questa potenza, il più adeguato è forse quello di tentatore, perché viene e tenta ogni volta di allontanarci, di distaccarci da Dio. Nella lotta contro l'avversario Gesù conseguì completa vittoria, il diavolo se ne andò via, ma tale lotta continua nel combattimento spirituale del cristiano, e quindi noi fino al giorno della nostra morte saremo sempre in un campo di battaglia contro l'avversario, il diavolo. La tattica del tentatore è sempre la stessa, egli è il serpente, lo strisciante, il mentitore. Che fa il cristiano? Il cristiano deve sapere che Cristo presente in lui è molto più forte del demonio e ha vinto il demonio. Gesù ha detto: non abbiate timore, io ho vinto il mondo, io ho vinto il demonio. E quindi il cristiano non ha nulla da temere se sta con Cristo e se invoca Dio: Padre nostro, liberaci dal male, dal maligno, dal diavolo. Santa Teresa d'Avila, vissuta nel 1500, un secolo bellissimo e travagliato, scrive: io non capisco tutte queste paure che fanno gridare il demonio, il demonio, quando invece possiamo dire Dio, Dio. C'è della gente che continua a vedere il diavolo dappertutto e non vede Dio da nessuna parte. È vero che esiste il demonio, ma è vero anche che esiste Dio, e Dio è infinitamente più importante, più potente rispetto al demonio, che è una creatura decaduta, ma che è una piccola realtà, una piccola cosa rispetto all'infinità di Dio. Il Vangelo di Matteo conclude il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto con queste parole. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli si accostarono a Gesù e lo servivano. Ecco qui, entrano nuovi personaggi nel racconto del Vangelo. Che significa angelo? Il nome angelo non esprime la natura, ma la funzione. Significa messaggero, portaparola, potremmo dire oggi banalizzando la cosa, postino, uno che ti porta notizie, ti porta la parola, lo scritto di qualcuno. Nella Bibbia, dunque, deve essere inteso nel significato di messaggero a tutti i livelli e sotto tutte le forme, dalla forma più antica, l'angelo di Yahweh, che vuol dire lo stesso Dio, Yahweh, che si manifesta, che parla, fino ad un inviato terrestre, un uomo, un messaggero, un apostolo, un missionario, uno che viene mandato da Dio a portare l'annuncio del Vangelo, può essere chiamato angelo, perché angelo vuol dire messaggero. Può anche trattarsi di un messaggio, oltre che di un messaggero. un messaggio interiore che la Bibbia esprime di solito con l'espressione «un angelo apparve in sogno o in sonno per dire». Una forte ispirazione di Dio, un'evidente luce soprannaturale. Leggendo il Vangelo di Matteo, qualcuno ha l'impressione che San Giuseppe fosse sempre lì addormentato, un dormiglione. L'angelo apparve in sogno a Giuseppe, lo destò dal sonno, si destò dal sonno, diceva che lo dormiva sempre. No, non vuol dire che stesse dormendo. Il sonno nella Bibbia significa un momento di profonda spiritualità, di contatto con Dio, un momento di estasi, se volete, un momento in cui Dio parla all'uomo interiore. Ecco, allora un angelo apparve in sogno significa, per esempio, applicato al campo, alla persona di Giuseppe, Dio gli parlò, gli suscitò dentro un'ispirazione e gli fece capire quello che doveva fare. Stiamo dunque attenti a non vedere dovunque angeli o demoni, ma non dobbiamo neanche negare, e quindi stiamo attenti a non vederli da nessuna parte. Qui siamo in un periodo della storia, fine secolo, fine millennio, in cui le persone più fragili sono delle persone che vedono diavoli dappertutto, angeli dappertutto, visioni dappertutto, e questa debolezza di fede non è un qualche cosa per cui vantarsi ed elogiare queste persone. Certo che esistono queste creature, ma vediamo di non moltiplicare, di non inventare, di non dare troppo spazio alla fantasia. Allora diciamo che è contro la fede cristiana mettere in dubbio l'esistenza degli angeli o quella dei demoni, mettere in dubbio le loro qualità di creature personali, spirituali, senza corpo, immortali, dotate di conoscenza e di libertà. Parlando degli angeli, aggiungiamo che per un dono gratuito di Dio sono stati elevati alla vita soprannaturale. In Cristo sono diventati veramente figli di Dio come noi uomini. Essi ricevono da Cristo, che è il loro capo, la partecipazione alla vita stessa di Dio. È la grazia che li fa figli di Dio come la grazia ha fatto noi uomini figli di Dio. Siamo dunque fratelli e sorelle degli angeli, figli e figlie di Dio come loro. Ma siamo a loro inferiori in quanto siamo anche materia, siamo spiriti incarnati noi, essi invece sono spiriti non incarnati. L'uomo è così la cerniera fra l'universo visibile, proprio perché è fatto di materia e di carne, e quello invisibile, proprio perché l'uomo è fatto anche di spirito invisibile. È la cerniera fra il mondo degli spiriti e il mondo dei corpi. In noi avviene l'unità perfetta di questi due mondi, il mondo degli spiriti e il mondo della materia, perché solo l'uomo è contemporaneamente e spirito e materia, ripeto, fa da cerniera fra l'universo visibile e quello invisibile. Per questo il Figlio Eterno di Dio, volendo riunire tutto per divinizzare tutto, si è fatto uomo, non angelo, perché se si fosse fatto angelo non avrebbe divinizzato il mondo della natura, delle cose, della materia. Invece si è fatto uomo perché facendosi uomo ha divinizzato, ha incontrato nell'uomo tutto il mondo dello spirito e tutto il mondo della materia. Si è fatto uomo, non angelo. Per la sua natura umana, Cristo resta inferiore agli angeli. Per la sua natura divina è infinitamente superiore agli angeli. Concludiamo ricordando anche qual è la funzione degli angeli nei nostri confronti. Gesù si riferisce agli angeli come a esseri reali e attivi che vegliano sugli uomini, ricordiamo l'angelo custode, e vedono la faccia del Padre che è nei cieli, quindi godono già dall'eternità la gioia del paradiso. Gli angeli sono al servizio di Dio, abbiamo appena visto, servono Gesù dopo la tentazione nel deserto, sono anche al servizio dell'uomo. Cito dalla lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 14, dove è scritto: gli angeli sono spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. Quindi Dio ha dato un incarico agli angeli: andate sulla terra e aiutate gli uomini a salvarsi. Cari ascoltatori, abbiamo parlato brevemente di Dio che ha creato gli angeli, che poi si sono divisi in buoni e cattivi, in angeli buoni e in demoni. A noi ovviamente interessa molto di più il fatto che Dio ha creato l'uomo, noi uomini qui sulla terra. Leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 1, versetto 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, se Dio ha creato l'uomo, significa che l'uomo non è autosufficiente, nel senso che non si è dato la vita da sé stesso. Quindi l'uomo e la donna esistono perché attingono la vita, perché sono continuamente creati da Dio, mantenuti nell'esistenza da Dio. L'esperienza quotidiana dell'uomo è duplice e può sembrare contraddittoria, ma non lo è. L'uomo, ogni uomo fa l'esperienza esaltante di dominatore del cosmo e anche l'esperienza opposta, quella deprimente dei suoi limiti e della sua impotenza. Quindi l'uomo come creatura è grandioso e nello stesso tempo è anche miserabile. Paradossalmente, mentre l'uomo con la scienza e la tecnica si impadronisce sempre più dell'universo, le più moderne ideologie mettono alla berlina tutto, dissacrano tutto e finiscono in una disperazione nichilista spaventosa. Allora, mettono alla berlina i sogni di un uomo Dio, come il cristianesimo insegna da 2000 anni, ma anche mettono alla berlina l'ideologia dell'uomo nuovo presentato dal marxismo. È ridicola anche la teoria di Nietzsche del nazismo, del superuomo, è crollata anche quella. L'esistenzialismo ha presentato l'ideologia, se volete, dell'uomo libero. E alla fine, nei tempi più vicini a noi, qualcuno, i filosofi dello strutturalismo, hanno proclamato la morte dell'uomo in nome della scienza. Leggo da Claude Lévi-Strauss dell'Accademia di Francia. Pensiamo che il fine ultimo delle scienze umane non sia quello di costituire l'uomo, di farlo vivere, di farlo progredire, ma di dissolverlo. Quindi la scienza serve per eliminare l'uomo dalla terra. Immaginatevi che allegria. Sempre di questa scuola dello strutturalismo cito Michel Foucault. Oggi possiamo pensare soltanto entro il vuoto dell'uomo scomparso. Quindi guardando avanti dice, noi pensiamo a un mondo dove l'uomo è già scomparso, dove l'uomo non c'è più. Bella prospettiva, diciamo. A tutti coloro che vogliono ancora parlare dell'uomo, del suo regno, della sua liberazione, a tutti coloro che pongono ancora domande su ciò che l'uomo è nella sua essenza, non possiamo che contrapporre un riso filosofico. Io aggiungerei uno sghignazzo filosofico. Senza giungere fino a questa disperazione, dobbiamo ammettere i molteplici limiti dell'uomo, tra i quali spicca la sua nascita per la morte e la sua stessa vita come attimo sfuggente, trascinata irreparabilmente dal tempo. Che cosa fare allora? Cosa deve fare l'uomo? Che è consapevole che in un soffio è arrivato in fondo ai giorni e agli anni della sua vita. Deve abbandonarsi all'angoscia? Distrarsi a tutti i costi e in tutti i modi. Ricordate quello che scrive Pascal nei suoi pensieri. Gli uomini, non essendo stati capaci di risolvere i gravi problemi della loro vita, al vertice dei quali spicca soprattutto il problema della morte, si sono tacitamente accordati tra di loro nel non pensare a questi problemi e a divertirsi, il divertissement, che più precisamente vorrebbe dire a distrarsi. Ed ecco allora che tutta la nostra civiltà serve per distrarsi, rumori e correre sempre, per non pensare, perché quando mi metto a pensare vado in crisi nera, perché mi vengono su da dentro questi interrogativi e questi problemi. L'Islam ha questa bellissima immagine. Il primo grido del neonato e l'ultimo sospiro dell'agonizzante compongono e proclamano il nome divino, Allah. Nasciamo bambini emettendo la prima A della nostra vita e spiriamo emettendo l'ultima A, l'ultimo respiro della vita. Il primo respiro, la prima voce dell'uomo e l'ultima compongono il nome di Dio. La Bibbia è pessimista come questi autori contemporanei? Assolutamente no. La Bibbia ci offre una rivelazione ottimistica dell'uomo. L'uomo è una creatura ancorata in alto a qualcuno, all'esistente con la E maiuscola, colui che era prima del principio, colui che è il creatore. L'uomo è sì dipendente nell'essere da Dio creatore, ma dipendente significa agganciato con questo Dio, un Dio che non lo molla, un Dio che non l'ha fatto per buttarlo, perché Dio è padre. E un padre come Dio non butta via le sue creature. Nel libro della Sapienza leggiamo: Dio ha creato tutte le creature per l'esistenza, non per la morte, per la distruzione. L'uomo è quindi segnato radicalmente da una dipendenza nell'essere, nell'esistere, che lo radica in un'esistenza solida e per nulla mortificante. L'uomo ha le radici in Dio e non è un'umiliazione questa. E questo avere le radici in Dio dà senso alla nostra vita. Quindi un'esistenza solida, per nulla mortificante, radicata in Dio, piena di senso, e questo nostro rapporto privilegiato con Dio apre orizzonti senza limiti. Vedremo poi nel Nuovo Testamento che Dio, oltre che averci creati, ci ha anche fatti suoi figli per mezzo del figlio suo Gesù Cristo, diventato uomo, nostro fratello. L'uomo tratto dalla terra, ricordate che Adamo significa appunto fatto di terra, terreno. L'uomo tratto dalla terra appartiene alla terra, la mangia, noi mangiamo i prodotti della terra, la beve, l'acqua fa parte della terra, la respira perché l'aria fa parte della terra, se ne veste con i prodotti della terra, si profuma con i prodotti della terra, finché tornerà alla terra dalla quale è stato tratto. Ma, dobbiamo subito aggiungere un ma, perché anche quando ci davano la polvere il mercoledì delle ceneri, o la prima domenica di Quaresima, e dicevano: ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerai, dicevano una cosa giustissima, è una frase detta da Dio nella Bibbia, ma bisogna dire tutta la verità, perché quella è una mezza verità, e la mezza verità è più pericolosa di una bugia intera. È vero che in quel momento Dio ha detto quella frase, però la Bibbia continua e ci insegna che Dio ci risusciterà dalla terra e ci farà sedere con Lui nei cieli. La prima parte senza la seconda non ha senso, ripeto, è una mezza verità più pericolosa di una bugia intera. Non dimentichiamo allora che Dio lo creò a sua immagine, è scritto già lì nella prima pagina della Bibbia. Ciò significa prima di tutto che l'uomo è fatto per essere creatore e dominatore della creazione. Tutto è stato creato per l'uomo e Dio lo ha fatto responsabile del mondo. Lavoratore insieme con Dio creatore per portare avanti il mondo e portarlo alla perfezione. Questa rivelazione apre spaziosi orizzonti e contesta duramente la nostra civiltà. La civiltà delle macchine, se volete. La civiltà della catena di montaggio che speriamo vada scomparendo sempre di più. Leggo da Albert Camus: il dramma della nostra epoca è che il lavoro controllato interamente dalla produzione ha smesso di essere creativo. L'uomo non continua la creazione, ma esegue come fosse una macchina un lavoro che non sa da dove parte e dove finisce. La società industriale aprirà le strade di una civiltà solo ridando al lavoratore la dignità del creatore, di essere creatore, ossia applicando il suo interesse e la sua riflessione tanto al lavoro stesso che al prodotto che sta facendo. La civiltà ormai necessaria non potrà separare nelle classi come nell'individuo il lavoratore dal creatore. Ogni creazione nega in se stessa il mondo del padrone e dello schiavo. L'orribile società di tiranni e di schiavi, dove siamo dei sopravvissuti, troverà la sua morte e la sua trasfigurazione solo sul piano della creazione, ossia quando ogni uomo potrà esplicitare le sue capacità e ci troverà gusto nel lavoro sentendosi creatore come Dio e non macchina di produzione o di consumo. Leggo da Pierre Gagne, un altro autore: quando la creazione viene a mancare in qualsiasi settore dell'attività umana, allora gli uomini degenerano disumanizzandosi, diventano macchine, perdono la dignità e l'anima. Per questo il lavoro che non offre nessuna possibilità di creazione non è umano. Se tutto è imposto, se l'operaio non ha alcun potere di decisione o di controllo, se non può prendere nessuna iniziativa, il lavoro è alienante. Sperimentiamo tutto questo ogni giorno. Ed ecco allora, immagine di Dio creatore, l'uomo deve essere creatore, se no non è immagine di Dio. Ed ecco la domanda che ognuno deve rivolgere a se stesso: sono io creatore a immagine di Dio? Cerco di avere un pensiero personale o sono un ripetitore della televisione, del giornale, delle frasi fatte? Ho una parola mia che non sia pappagallesca? O, per esempio, una scelta politica responsabile, o vado dietro a quello che grida di più? La mia creatività sonnecchia o è operante? Uso il cervello, invento, creo, sono sempre operoso, uso le mani, questa capacità manuale splendida. Ho dato corso a tutte le mie possibili capacità creative per me e per gli altri. Ossia, Dio creatore sta facendo delle cose favolose. E io che sono immagine del creatore, che faccio? Chi non ha iniziativa e senso di responsabilità è un uomo sciupato, perché è un'immagine di Dio sciupata, perché Dio è pieno di iniziativa, pieno di creatività. Basta predicare bene la Bibbia, il Vangelo, presentare l'esempio del Padre, del Figlio, Gesù Cristo, che qui in terra ha lavorato, per tirare fuori dalla ignavia, dalla pigrizia, anche i popoli di qualunque mondo, del primo mondo, del terzo mondo, che vivacchiano, non si impegnano, non trafficano i talenti che Dio ha dato. È contro la volontà di Dio, è peccato essere pigri, inattivi, spenti. Allora l'uomo è a immagine di Dio creatore ed è stato chiamato ad essere come lui creatore, collaboratore con Dio, lavoratore per la trasformazione dell'universo. Ma questa espressione rivelata, l'uomo creato a immagine di Dio, svela un mistero ancora più profondo. Tra l'uomo e Dio esiste un rapporto di parentela, un rapporto filiale, lo scopriremo poi nel Nuovo Testamento. L'uomo è chiamato a superare la sua natura non per essere simile a Dio, come aveva suggerito Satana ad Adamo ed Eva, ma per diventare veramente Dio in una partecipazione di vita e d'amore. Noi siamo, per grazia, per partecipazione, per dono, veramente figli di Dio. L'uomo ha dunque la vocazione di figlio di Dio, ma non a scapito della sua umanità, bensì trasfigurandola, facendola esistere pienamente nella vita divina che gli è offerta. Detta in altre parole, se a me uomo facessero questa proposta: smetti di essere uomo e diventi Dio, io risponderei di no, perché Dio mi ha creato uomo e la volontà di Dio manifestata nella creazione è che io resti uomo. Mi dà il dono di diventare figlio di Dio, non mi dà questo dono a scapito del primo, sarò veramente uomo e veramente figlio di Dio, come il figlio di Dio Gesù Cristo, che è veramente Dio e veramente uomo. Questo mistero sarà svelato pienamente solo da Gesù, l'abbiamo imparato nel Vangelo. Ma fin dalla creazione l'uomo appare come amico e figlio di Dio, capaci di rapporti di affetto. Basterebbe pensare che Dio ha creato l'uomo per amore e lo ha fatto simile a sé. Se non l'avesse amato, l'avrebbe fatto tutto diverso, l'avrebbe fatto una schifezza, un essere odioso, ma Dio l'ha fatto il più possibile simile a sé. Viene così delineata già nelle prime pagine della Bibbia una lunga storia per l'umanità e per ciascun uomo, una storia d'amore e di libertà. Concludo questa terza parte leggendo un brano di Charles Baudelaire. Man mano che ci inoltriamo nella riflessione sulla Bibbia e particolarmente sul Vangelo, scopriamo la verità che costituisce il nostro credo. Colui che è creatore è anche amore. Solo l'amore è creatore. Solamente l'amore può far sì che un uomo diventi qualcuno. Solo l'amore può liberare le forze assopite della libertà e dell'intelligenza. Solo l'amore può far esistere la cosa più preziosa, questa ragione per la quale si darebbe ogni cosa, ciò che nemmeno la morte può ridurre in polvere. Solo l'amore può far nascere la gioia che nessuno può strappare. Cari ascoltatori, concludiamo con questa quarta parte cercando di dare qualche risposta spiccia alle obiezioni che nascono dal rapporto tra Dio creatore e l'uomo che creatura è dipendente da Dio. Alcune obiezioni anche consistenti. Come possiamo essere liberi se dipendiamo da un creatore? Come vivere una storia con Dio se Dio è immutabile? Come esercitare la nostra creatività in collaborazione con Lui se Egli è eterno, ossia fisso, invariato, immobile da sempre per sempre? Sono domande in parte mal poste, perché Dio non è così come si sta dicendo in queste obiezioni. Una simile difficoltà è di una logica astratta implacabile e la troviamo alla radice di molti ateismi del nostro tempo. Ancora, se il creatore è l'onnipotenza immutabile del destino che incombe sull'umanità, non c'è più posto per la libertà creatrice dell'uomo. Dio ha già tutto fissato, ha tutto programmato, tutto fatto, va avanti tutto automaticamente. Non si deve più parlare di storia, allora. Tutto si riduce a un'opera teatrale, già da tempo scritta, già pronta sulla scena, dove si sa già quando bisogna ridere e quando bisogna piangere. Quindi noi saremmo, in questa ipotesi, dei robot manovrati da un regista. Una concezione come questa è aberrante. Qualcuno dirà, ma a me sembrava di aver capito così, forse me l'hanno detto al catechismo. Certo, sono temi non facili, ma non stanno così le cose. Una concezione così aberrante dipende da una falsa idea sul conto di Dio, dall'idea di Dio che ci è offerta dai filosofi. E purtroppo qui dobbiamo batterci tutti il petto. Tante volte abbiamo predicato più il Dio di Platone e di Aristotele che il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo. Sempre per quel motivo di cui dicevamo qualche sera fa, la filosofia che doveva essere ancella, serva della teologia per spiegare meglio il pensiero di Dio, a noi uomini che abbiamo delle filosofie in testa, è diventata padrona e ha fatto da padrona ed è stato un guaio. Il Dio dei filosofi non ha storia, è eternamente fuori del tempo, al di sopra della mischia umana, è immutabile. Passato, presente e futuro del cosmo e del mondo stanno insieme sotto i suoi occhi, tutto il susseguirsi della storia umana è davanti a lui da sempre come un libro spalancato, un panorama che si muove sotto uno sguardo che non si muove. Questa è la visione, insomma, del Dio dei filosofi, un Dio che sa tutto, prevede tutto, ha già fatto tutto e non si cambia neanche una virgola. Se le cose stanno così, come si fa a dire che la storia umana non è truccata? A me hanno detto, tu sei un uomo libero. Libero in che cosa? Se le cose stanno così, io sono un finto libero, un illuso. Ripeto, facendo degli interrogativi, se il creatore non è coinvolto nella nostra storia umana, se dalla tribuna d'onore vede non solo la gara che si svolge al di fuori di lui, la partita, ma anche con un solo sguardo eterno, vede tutto lo svolgimento della partita con le sue vicissitudini, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, e sa già anche quale sarà il risultato. Allora mi chiedo, e perché dobbiamo giocare? A cosa serve? Per mettere in evidenza se questa squadra è migliore di quella? Il risultato è già stato fissato, non c'è niente da dimostrare. Se Dio è così, non cambia nulla e quindi tutto quello che facciamo è perfettamente inutile. Ci chiediamo sempre, per stare nell'esempio sportivo, come può il giocatore essere libero, capace di iniziativa, di creatività, se comunque faccia, con impegno o senza impegno, il risultato è già stato fissato in partenza. Fortunatamente la Bibbia e Gesù ci rivelano un Dio completamente diverso da quello dei filosofi. Un Dio padre che vive con l'uomo suo figlio, dialoga con lui, lavora con lui e prende l'iniziativa di una grande avventura insieme con l'uomo, dove non mancheranno rotture e riprese. E Dio si impegna nello svolgimento di una storia comune con tutta l'umanità. ricorriamo all'esperienza delle nostre famiglie. Dio si presenta come padre e noi come figli, creature. Allora, padre di famiglia, madre di famiglia, tu metti al mondo un figlio. Certo che dipende da te nell'esistere, prima non c'era, lo hai messo al mondo tu. Certo che dipende dalla tua volontà, dall'educazione che tu darai, eccetera, mano a mano però crescerà, diventerà responsabile, libero, adulto come te. E tu sei contento che tuo figlio diventi grande e capace di badare a se stesso. La storia che tu fai mettendo al mondo un figlio non è già scritta. Può succedere questo, quell'altro, non lo sai tu, dipenderà dalla buona volontà tua, di tuo figlio. È tutta una partita da giocare. La stessa cosa tra Dio e l'umanità. Della storia dell'umanità, Dio possiede dall'eternità il sicuro disegno, un disegno d'amore. Che cosa vuole Dio dal mondo intero? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino a vedere Lui in faccia in paradiso. Un disegno di questo genere a noi va benissimo, però non ci costringe ad andare. Uno può anche dire, io resto fuori ed ecco l'inferno. Non è un disegno sull'uomo in un universo prefabbricato. Dovremmo anche qui chiarire una cosa, anche certe canzoni di chiesa non sono molto ben scritte. Il tuo disegno su di me... No, Dio non ha nessun disegno sull'uomo, è l'uomo il disegno di Dio, l'opera di Dio, la realizzazione di Dio. Dio non ha un disegno esterno da appiccicare all'uomo come un adesivo, no. È il mio nascere, il mio crescere, il mio realizzarmi, il mio arrivare alla salvezza, il disegno di Dio. Sono io il disegno di Dio, non un qualche cosa, ripeto, che mi viene appiccicato dall'esterno, il suo disegno su di me, no. Sono io il disegno di Dio. Il disegno di Dio è l'uomo, l'uomo che deve vivere qui nel mondo dell'uomo, qui coi piedi sulla terra, dove Dio sta dispiegando con amore la sua attività creatrice. Qualche volta, forzando le parole, si elogiano certi santi, e per fortuna non erano così, perché sono vissuti come angeli. Qui in terra dobbiamo vivere come uomini, come donne, santi, non come angeli. Allora, dipendenza e libertà sono termini contraddittori solo nei libri di cattiva filosofia, non nella vita. Uno dice, se dipendo non sono libero, se sono libero vuol dire che non dipendo da nessuno, e sembra che sia un ragionamento ineccepibile, mentre una boiata. Volete un esempio? Due innamorati, ragazzo o ragazza, marito o moglie, sono completamente dipendenti l'uno dall'altro, eppure sono totalmente liberi. Sei costretto tu ad amare la tua ragazza? No, no, sono liberissimo. Eppure sei totalmente dipendente da questa ragazza nell'amore, perché sei vincolato in profondità. È vero, ma questo non mi fa schiavo. Sono totalmente dipendente e totalmente libero nello stesso tempo. Pensateci. Dio, proprio perché ama, è tutto qui il discorso, fino a quando non ci cacciamo nella zucca, che Dio è amore, solo amore, nient'altro che amore, non capiremmo nulla né della Bibbia né della vita, né del presente né del futuro. Tutto quello che Dio fa e tutto quello che l'uomo deve fare è amore, punto e basta. Ed ecco allora Dio, proprio perché ama, prosegue il suo disegno immutabile insieme con noi, uomini liberi, e ci lascia liberi proprio perché ci ama, uomini liberi che vuole come suoi collaboratori in tutto, come un genitore vuole i suoi figli liberi che collaborino con lui anche quando sono piccoli, perché così si realizzano, così rispetta la loro dignità. Il risultato della partita non è già fissato in anticipo né per Dio né per l'uomo, perché tutti e due giocano insieme nella stessa squadra e senza barare. Ma allora voi dite, ma chi è l'avversario? L'abbiamo detto prima, l'avversario è il diavolo. Quanto siamo testoni e stupidi quando consideriamo Dio il nostro avversario. Dio è con noi, dice Paolo nella lettera ai Romani, ma la Bibbia lo dice tantissime volte. Dio è in nostro favore, Dio è morto per noi, per essere dalla nostra parte. Allora, Dio non è nemico, Dio non è avversario. L'avversario comune a Dio e a noi è l'altro, il demonio. Allora, giocando nella stessa squadra, dobbiamo dire i risultati dell'uomo sono i risultati di Dio e viceversa. Sono legati Dio e l'uomo nella buona e nella cattiva sorte, in un cammino verso il futuro. Tutto il contrario della fissità nell'eterno e nell'immutabile insegnata a noi dai filosofi e forse anche da qualche improvvido catechista. Noi non crediamo nel Dio immutabile ed eterno come se fosse una statua di gesso o di marmo. Dio è vivo, vivissimo, vivacissimo, molto più di noi. Allora in che cosa crediamo? Noi crediamo nel Padre immutabile nella sua decisione di amare l'uomo. Crediamo nel Padre eterno nella sua ostinazione d'amore per salvare l'uomo, ossia per farlo suo figlio. In che cosa è immutabile Dio? Dio è immutabile nel suo amore per me, perché mi vuole amare infinitamente e salvarmi. Su questo Dio non cambia parere. E a me fa piacere che Dio sia immutabile, non posso più dubitare che Dio non mi voglia più bene, mi abbandoni, non mi voglia più, mi butti via, mi condanni. No, Dio è immutabile nel volermi bene da Dio, un bene infinito, su questo non devo dubitare. Creando l'uomo a sua immagine, Dio fa l'uomo come un padre fa il proprio figlio, col fine di suscitare davanti a sé un altro se stesso, libero. Irresponsabile, capace di amarlo e capace anche, se volete, di rifiutarlo perché è libero. Questo padre, questo Dio, ha voluto avere una sola risorsa, non quella degli eserciti, non quella del pugno duro, non quella della sbarra di ferro per spaccarci la testa, no. Dio è amore e può fare solo quello che l'amore può fare. Ed ecco allora che Dio amore ha una sola arma, una sola risorsa: sedurre, insistere, e insistere senza mai perdersi d'animo, sedurre l'uomo con la testimonianza del suo folle amore per lui, come un innamorato che trova ritrosia nella sua ragazza e che non si perde d'animo e che è convinto, se non è oggi sarà domani, vuoi vedere che a forza di amarla e di darle assicurazioni d'amore, gesti d'amore, crederà. E ricambierà, entrerà in questo vortice dell'amore che io ho per lei. Questa testimonianza dell'amore di Dio per l'uomo, di un amore folle, di un amore matto, scoppierà all'interno del dramma del nostro peccato. Noi a Dio non abbiamo voluto bene, ma Lui è immutabile nel suo amore eterno per noi. E quando scoppierà in un modo visibile, indiscutibile, questo amore di Dio, in modo che nessun uomo potrà più non essere convinto che Dio lo ha amato fino alla follia, con l'incarnazione di Dio. Dio diventa uomo, materia, creatura, come me. L'amore o trova l'altra persona simile o la fa diventare simile. Uno che ama veramente cerca di mettersi al livello della persona amata. Noi adulti, quando amiamo un bambino, ci abbassiamo al livello del bambino, ci sediamo per terra, ci sdraiamo per terra per poterlo guardare negli occhi, occhi negli occhi, bocca a bocca, faccia a faccia. Oppure lo prendiamo e lo solleviamo, ce lo mettiamo sulle braccia, perché possa essere grande come noi, alla pari con noi. Ecco allora, Dio è sceso al nostro livello, per noi uomini e per la nostra salvezza è venuto qui in terra e l'abbiamo visto faccia a faccia. Alla fine ci solleverà alle sue altezze nel paradiso, sempre per vederlo faccia a faccia. Ecco allora l'incarnazione di Dio, la mangiatoia di Betlemme, la croce del Calvario. Questa è la follia di Dio, l'amore pazzo di Dio per l'umanità peccatrice, per noi che non gli volevamo bene, non lo amavamo. Ecco le follie di Dio per attirare a sé la nostra indomabile libertà. Ma anche queste cose non ci costringono, ci sollecitano, ripetiamo, sono le forme di seduzione di Dio perdutamente innamorato di noi, che è convinto che prima o poi capiremo il suo amore e ci lasceremo coinvolgere liberamente in questo vortice di amore divino. Certo, con questo discorso voi avete capito che ci stiamo introducendo nella seconda parte del nostro credo, che ci porterà ancora più lontano nel mistero dell'uomo creato in Gesù Cristo. Questo uomo nato dalla terra in Gesù Cristo nascerà con una vita che viene dal cielo, diventerà non solo figlio della terra ma figlio di Dio. La prossima volta continueremo qualche osservazione, qualche spiegazione del credo, parlando appunto della nostra fede in Gesù Cristo.